Attenzione, canale 23 c'è qualcuno. Hola 23 c'è qualcuno. Attention, attention my friend, Italy from Sardinia. C'è nessuno su 23? Buonasera, anche a te. Buonasera, ben alzato, tutto a posto? Va bene alzato, sono curato mangiano a regia e mezzo in terra. Tu sei come me, ancora dice, mi sveglio presto la mattina. Adesso mi ha chiamato Gaetano, ha trovato Alberto, ti ricordo Alberto Giallo, attivamente. Bene, l'ho trovato molto anche lassù, era un mese attiva, dove era la settimana, sono rientrato, sono andato a controllare, l'ho trovato morto in casa. Mi ha chiamato Gaetano adesso. Morto in casa sua? Ma vivi la rasura? E io sono viveva col figlio, il figlio c'è da lui, non l'ha tenuto, lui c'è il figlio. Sembra se c'è ancora il figlio che è suo, non lo so. Ma che infarto è giunto? Dai. Ha pensato il burro se ne è andato ed era giovane io. Già si ha dato qualche giro della gamba e pigliato la stipilla. Ma da morto era? È morto. Cioè è morto da morto? Non so, perché Gaetano l'ha chiamato il fratello, capito? E l'ha trovato quanti giorni era morto, boh? Aspetta. Dove andiamo, Io conoscevo il padre, la madre, che non vi so più, no? Dove andiamo? Non faccio, cazzo, quest'anno sono molti, è morto Angelo Pina, Mario Pina, è morto con la voce. Capite? Che abbiamo fatto un gallaccio, là? 24 era brutto, un po'. Ma, che sa, il 25 c'è più bello. Appunto, vabbè. Ebbene, vento, non sta facendo un attimo, è lui, non sta facendo freddo. Quel vento c'è l'ha calmato. Calmato quel vento e... chi sa che non forse era stanotte. Che a me perché ha messo pioggia da domani a domenica. Qua il vento non ha calmato, lui ha aumentato il vento, ha aumentato. Tutto il vento, e vabbè. Già il tempo suo, Ehi, la perturbazione africana, Ma com'è la perturbazione africana della bussava a gas, invece bussa freddo, bussa. piano, se piove il tessiere fa più danno che altro, guarda. Però è interessante che lo chiede. Fa solo casino, boh. Speriamo che sia che abbia riempito un po' da nuovo Rosina a Cagliari, che ne bisogno d'eva, ma da noi è solo che di Ghizzo, un po' zaffarata, anzi un po', un bel poco ne farata. Sì, no, ma sa fa pozzi e neanche mai in bozzi. Era uscito lì? Sì, è rientrato, sembra rientrato che era zicola con quascio. Ho 15 minuti per fare il tuo giro. Facciamo a posto. È una vicina alla stufa. Già è rimasto il tuo giro fuori. Già c'è una bella pelliccia, però il freddo già lo tengo lo stesso. Ma se sta vicino alla stufa! Ti piace Rugaroni, mi piace. Io invece Rugaroni non mi piace. Vicino, no, ma però già il calore già arriva, e già mi piace il caldo, sì. E poi dimmi un coso, un vedo. E se non vedi niente, come fuori, sai che non lo messo. Ho già tirato un grande, e dopo cos'è? Magna risi e non travaglia. E dopo che vado a travagli su io. No, ma loro sono abituato a stare fuori, sta tranquillo che vi serve tutta la vita, non vai entrare dentro, sono abituato a stare fuori, dormi fuori. Ma è già rimane fuori, se c'è la dormire rimane dentro, capito? C'è la sua cosa, il suo materassino, la notte diciamo, là. Si conta il materassino e così da. Si fa le sue passeggiate, c'è il suo territorio e fa quello che deve fare. E poi rimane sopra il pubblico attento a chi passa davanti al cancello. Ma ne accogli due da voi tutta la cosa che fai? Se ce la raccogli tu là i bisogni suoi. E appunto, lui la notte, dopo verso le 7:30 a mangia, diciamo, là, le crocchette. Lo mangia lui stesso, perché allora, è solo per dormire la notte, capito? Già, già gli fa bene. Ma si ingrossa le ossa, si ingrossa ancora di più. E a chi è grosso non l'ha mai detto. Per gli 8 anni non sta più gareggiando come una volta, capito? Prima faceva gareggiare, andato in continente, in diversi continenti. Quando ha avuto l'intervento della gamba io, lui era in Germania, dice sai tra mia figlia, mia moglie. E gli altri del gruppo da qua diciamo là hanno vinto il Corso di Germania, hanno vinto, poi ne ha fatto un altro paio qua a Sassari, nuovamente fuori il continente, e poi insomma già che hanno detto ormai mia figlia tu basta, hai terminato di gareggiare, già basta, fanno scappare più il coppe, coppette, medaglie e via via, ha tappezzato vabbè già durano. Ah, è coso. Se dice invece, se le tenne un po' così appurelli. Urgente, dai. Mi hanno veramente, mi ero lì. Se non mi ricordo, io non ero urgente. Poi, questo mese è stato inutile, sì. Non ho capito. Questo mese è stato inutile, infatti. Ah, sempre la stessa cosa, già. Sempre la stessa cifra. Anzi, aspetta, sì o no, se mi hanno aumentato, mi hanno aumentato di... erano 43, sono arrivati a 60, quindi 17 euro. Cioè i suoi conguagli e così via, capito? E vuol dire che avrebbe superato il reddito, però dal prossimo anno li avrai giusti, li avrai, perché con il lavoro che ci avevi, non ti hanno fatto un conguaglio. Ci sei il fascio d'assai, no? Vabbè, no. Diciamo non ci possiamo lamentare, ma io non mi lamento, dai, non mi lamento, intanto sapevo quanto stavo ritirando lo stipendio, diciamo 200 euro in meno sto perdendo, ma come tu pensi 200 euro in meno e ci mettiamo la benzina, dunque sai cos'è, che prima raggiungevi quel tanto dove si facevi straordinario, ecco, allora c'è tutto pulito, ecco cos'è qua, che hanno iniziato a farti le trattenute anche. Esatto, sì, c'è la scritta, adesso sono trattenute, però sono appena fino a giugno, quanto stavo prendendo l'anno il mese scorso, che era 1000. Sì, è così, infatti. Mezzo fa di un anno senza calamendere le trattenute, mi ha dato fa un anno, ma mi ha dato tanto. Poi da gennaio mi sono trovato, ci vuol dire, 300 euro in meno. E l'hanno fatto come stavi dicendo tu, per volta, capito? Tutto l'anno era regolare, e poi l'anno dopo un tempo con il lettore, e poi continui a regolare, dai. E va bene, dai. se siamo alla salute sappiamo gli usci già. Oh, ma quello mi sicuramente ne, però pensavo che davano molto di più di coso, invece di aumento, invece dei spiccioli. Che ci sentono le voci, aumento 20 euro, 30 euro, 40 euro, io ci voglio, aumento 5 euro. Scusa, già sono qua. L'hai fatto? Figlia. Fronteggio, Maduro, ha arrestato 150 stranieri, arrestato. Se non lo molla, ha detto che li attaccano. Non so come ti so, sono mettere due loro, che hanno dei veni e che hanno gennandoli. Purtroppo. Mamma mia, la mareggiata. Oh! Non sta lontano da Romari, ma vai, vai. E con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai? Con i russi? Adesso noi parliamo di una fiscia, si chiama Martellica, stanno praticamente morendo in fame. Ho visto che la Russia domandando ai nordcoreani altri uomini, gli ha chiesto, e gli ha detto di no, che non ne rimanda più, mi ha dato 1000. E non li lasciano in più 1000. Certo, ne ha fatti tutti i fuori, ne ha fatti la Ucraina. Sta giù baedo. A me ne prende fuori a voi i russi, ne prende fuori. Ma è molto un bel di uomini, non è molto. Un sacco di russi vi sono passati. Hai fatto vedere un sacco di carraimati, tutti i vermi, tutti i carraimati russi, tutti i vermi. Senza gasolio, che non riesce a arrivare il gasolio. Inviati in coso, inviati prigionieri. Il direttore è chiuso al salvato, il gasolio non è a noi, pure senza gasolio sono rimasti inviati, per carità. Perché non fanno una faccia? Gli suggeriva di sentire un burro, che conveniva a fare a base allo russo, tanto appeso, anzi è pizzendi, perché gli hanno chiuso il passaggio, hanno fatto lo monte dove passavano per rifornire, e gli hanno buttato giù, ma non sanno come andare a rifornire. In elicottero non si può avvicinare, che prende le lampade. Le cose devono fare la retromarcia, le cose devono fare tutta la città. Ma il fatto è che a fare la retromarcia non possono fare la retromarcia perché il monte non c'è più. E quindi li sono amati, li sono prendi prigionieri, li sono prendi ai russi. Mi ha inviato dei carraimati che non camminano. E sono appena i prigionieri, però sono qua. Come era a me, la faccio tanto in cucina, la giù assato. Quando arrivi a me, mi arriva un po' di pubblicità. Io sono andato a prendere le porte, io all'inizio prendo le porte di porcellana e vado a portare a Uzi, che domani c'è la partita, due portiere dell'Uzi, capito? Si è arrivato di me, toccanti. E dunque domani, perché il padre c'è in due giorni, c'è mezzo giorno e mezzo, capito? Si lavora Uzi, con l'azienda nostra, capito? Dunque io l'accompagno a Uzi e poi scende, rientra con il padre. E così, a destra, a sinistra, dunque non sei solo, non ti occupare. Sì. Ma piccolo io ho grandetto. Ma sto lavorando. Guarda, stanno bene, è giusto, io ragazzi non vedo, è giustizio, niente a dire, ma io dico che ti è andato prima, che ti ha fatto, voglio un foglio scritto. Poi se ne vede, se te lo chiedono, è così. E poi lo devi accompagnare a Ugini a giocare. Vabbè. Un po' di... almeno ti muovi un pochettino. Io la prima volta accompagno a Ugini e qualche altro paese. Non la prima volta. tu hai giocato con casa sana, tu adesso il messaggio rimane nel telefono, non interessa nulla. Tu mi accompagnava a casa stato qualche volta che non c'era la macchina scende, capito? Perché come la casa stato passava lo lasciavo tetto qui ai punti, qui a Villa Golizia. Tre mesi si era fatto gli yoghelli, ogni sera. Ma va bene così. Sono andato la notte, tardi, dai. La notte, la una, lui riesce proprio a recuperarlo. E vabbè, anche lui l'abbiamo fatto. Amore, so. L'importante è che ci divertia. Che ci diverta bene. Giugelli, voi ci devi innamorare, so chi si divertono. Esatto, e vabbè, in questa la che si diverta, non in questa la che studi. A chi oggi se pensi, non so che così. Purtroppo, i figlioli e i nipoti ce li dobbiamo aggiungere anche noi. No, io lo porto il martedì e il giovedì in palestra. Se non può andare la male mi tocca per mammino in chivi per portarlo a casa sua. Che non vuole. Ciao, passo la madre che mi accompagna la bambina in palestra, dopo già ritirare babbo a lui. E io con l'accompagno me ne vado via. Oh. Mi piglio i rubboni. Oh, ce l'hai tu, sul profilo tuo, sul tuo profilo proprio. C'è la foto, sono in bicicletta, la donna e il maschietto. E c'è appunto, quando lo guardo, proprio mi ricordo il nonno, dai. Capito, è preciso. È uscito il mio accoglio, è uscito. Vabbè. Vuol dire che me la porto come figliura. Sicuramente. No, io guardo sul collo. Quando io mando qualche messaggio a te, c'è il nome, però c'è il compagno, lo conosceva abbastanza bene, capito? Il padre lo conosceva abbastanza bene, poi la madre mi conosceva lì da piccolino, perché già lo sai, eravamo vicino, comunque conoscevo la madre, la nonna, diciamo, conoscevo tutti quanti, che abitava a fianco, invece. Lui ha cambiato officina, Milano non ce l'ha più e questo è molto molto più grande. Il locale è suo, sì? No, è in affitto per il momento, poi non so, un domani se ce lo compra. E vabbè, piano, dalle cose sono più. Pensando che stia lavorando. Sì, guarda, se lui lavora bene, lavora onestamente, i clienti ce l'hai e rimangono, capito? Ma quello che sta lavoricchiando comunque già è bravo, sei bravo come il padre, perché il padre l'ha abbastanza in gamba, bravissimo, detto anche le altre persone, l'officina era ultimo. Aspetta, c'ha 4-5 punti c'ha dentro. C'ha 5 punti. Ma voi sapete i macchini? Ecco, più spazio c'hai meglio, capito? Più spazio c'hai meglio, quindi così, io il padre lo conosco, io veniva spesso quando io ho lavorato con l'attività giù per la Nieda, così non so, io ho lavorato anche 10 anni da Lesa a per la Nieda, non so, e lui veniva a comprare cuscinetti, le cinghie, paraoli, parafitti, così via, dunque ci conoscevamo così. Lo conosceva abbastanza bene, capito? E adesso tra poco devo portargli la macchina, quindi devi già fare due berni, dallo sterzo, vicino alle ruote. Devi già andare e poi devo pagarlo. Ma gli sto preparando il conto. Sì, io lo preparo, che è passato già un paio di mesi. E tu stai così, accorto la conclusione. Tu stai così, tu basta lì per genere, faccio una cosa la confusione, tu fai un po' di casino e siamo a posto. Beh, taglia. Purtroppo è così, allora me la porto qua, poi c'ho anche il piantone piccolo dello stesso, se me lo devo fare un bagno, dice che se no continua a darmi colpi al piantone grande. Ma lo stesso ti vibra, no? Ogni tanto mi vibra, però quando c'ho più voci mi con i colpi, se si intende. Tanto mi dici che non è quasi nulla, ma io intendo i colpi forti. E la gioia ha detto, se continua così, vivo per un pianto alle mani, vivo. E mi costa un vedetina. Lui dice così, ma la scuola della macchina la stai usando tu, dunque, domani, il coso lo senti tu, lo senti. Lui, magari lo sente una volta, quando la prova la macchina e basta. Ma come la macchina la usi tu? Dunque, quelle nuove vibrazioni le senti come sente lui. No, ho fatto sedere in macchina, ho detto, siedi, e te lo faccio sentire. Ti hanno buttato in divisione i voci. Oggi sta bene, non intende, non sentire la vibrazione che c'è, però sento i colpi. E mi ha detto, sì, si può cambiare il piantone piccolo. Si sta mettendo sul cuore a dare i colpi. E qua poi vogliono cambiare anche le boccole grandi. Pensa un poco. Perché si dà un colpo, un colpo alla mano, le boccole, le vibrazioni, il fatto. Scusa, poi ti trascuri da un uomo piccolo si succede un danno più grande, capito? Infatti, capito, è tutto un casino di a Pradaneta, dove passo io quel pezzolino non l'hanno fatto, ha detto è tutto voci. E da lì è diventato un coso, una trincea, casi il consorzio da mangiare prima e non aveva tenuta a quel cane che ho bisogno. Del company, sono tutti sempre in mani di là, non bisogna mai di là. Cioè, basta per iniziare a sequestrare un po' di roba, la roba di casa sua e il suo dietro. Da quando c'è questo qua non va mai di là. Chissà che fine fanno fare il suo direttivo. Ma non so se c'è nel futuro, ormai non fa più nulla. Il comune ha messo un po' di soldi, perché da gennaio continuavano a fare qua e non ha visto nulla ancora. Non hai fatto nulla, non hai fatto. Cazzo, se scarti uno e prendi quattro, hai capito, una trincea, forse per la macchina, faccia lei un colpo di con le mani e ti partono i motorizzatori, partono queste, boccole e boccole. Infatti, ma se lo difendi di qua, non ha su giro io, se lo difendi di qua, per non passare da in quel pezzo che è tutto voci. Ma tu lo passi, fai la croce, giri dove c'è menù e ci sta marcato, oppure passi al contrario, dove c'è il bricco come passi. Passo da Cebri come faccio il giro vicino al mercato e faccio la rotatoria e scendo giù vicino dove si può dire andando verso la pasticceria di Goggio, la pasticceria in Chivi e la palestra è lì e lì c'è cosa, c'è, come si chiama, c'è Rauce. Rau, pazzeria Rau, Rau secchi, cioè. Ah, la palestra, lì è, ma dove c'è il circolo è la palestra? O sopra il coso, la pizzeria ristorante? No, la pizzeria ristorante è sotto, dove c'era prima coso, quello che vende i mobili usati, lì era. E la cosa, la palestra è su in alto, sotto c'è il circolo, c'è. E il coso dei dove suonano. Vabbè, risale che se io ricordo il retro, la palestra è sopra il retro c'è la palestra, che è sempre di loro, poco parole. Infatti, certo. Lì si aggarrere tutto voci, ma ne casi uno ne vedi tre. E io lo so, io intanto faccio il pezzettino, se conosco da venire a fare il pezzettino al troce faccio la troncatura, capito? Passo da dietro, passo, e devi camminare piano, devi stare attento. Ci sono corsi, gente si sta mettendo dentro, ci sta, ma io non dico aggiustare. aggiusta e tappa qualcosa, ma anche quelli di loro, il disglonico, non è roba nostra, però si cuoti, che ormai c'è il ristorante, c'è il barbiere, c'è la palestra, c'è uno che fa i fissi, vi cuotate e vi aggiustate quel pezzettino, a me l'ingresso, non dico tutto, l'ingresso è la roba più grossa, diciamo, dai. Il cazzo è tutto fuci. Se sei carriera con l'asfaltata tagliante con l'asfaltata, scatta tutto fuci, ne casi uno ne bisogna tre i bigli. Io so, anche sono passato anche ieri sono passato. È un casotto, è un casotto. Mia figlia per esempio qui a casa, verso San Giorgio si è staccato il motore, c'è avuto un motore nuovo si è staccato la macchina sua, poi da poco ha cambiato, da poco la settimana scorsa i motorizzatori è tutto buchi qua a San Giorgio, a San Giorgio non si può passare, è tutto segnalato dai vigili, però nessuno aggiusta, capito? Quello sarà comunale, e sarà comunale, però nessuno aggiusta. Ma cosa, ma com'è che i nostri vicini verranno in voce, hanno insegnato in luglio, hanno insegnato e li hanno tappati. Però andando da mia figlia qua vedi, prima del passaggio a livello, aspetta, vediamo, c'era la chiesetta prima, e qui è tutto fuci, Giabanoa. L'altro ieri è uscito un giornale, c'è il sindaco, si propone di aggiustare un pezzo almeno a coprire i fuci che ci sono, invece nulla da fare. No, non li vuole sapere. Qua sono i vigili e nulla. Non segnerò nulla. Oh, yeah. Il cartello è la cartella, così, dopo il passaggio di livello, no? No, prima di scendere al passaggio di livello, che fai la curva e vai alle scuole. E fai l'altra curva, che c'è, e vai al passaggio di livello. E un pezzo lì. Certo, tagli il viso a fuoco, ma un bel... Non mi dice che non sono stato abbanato, però abbanato. Flasciati in chili e non ha mai accolto. Ma quella lì nella casa, ecco, quella è casa di campagna, non mi sbaglio, che dietro c'è la frutta, dove è la frutta, no, non mi sbaglio, no, quella è dopo il passaggio a livello. Io sto dicendo molto prima di arrivare lì, prima di entrare dentro in quella strada lì, che fai la curva e vai alle scuole. Dopo c'era la chiesetta prima, te lo ricordo, che adesso c'è il circolo. Lì sto dicendo, lì c'è un fascio grande, anzi un bel fusci. Ho capito, dove c'è la chiesetta piccolina, sì. No, ho detto, già qui lo vedo, a Sant'Orso oppure vicino al passaggio di livello? No, giù a Sant'Orso, via Cesaraccio, dietro c'è via Cesaraccio. Il dove è il dottore, là, fuori da via Cesaraccio, vabbè, la prima traversa via Cesaraccio a sinistra, attorno, il mio cognato. Ho capretto, è un casotto, con questo asfalto, boh. Sono si decide, speriamo il prima possibile. Ma cata, io non dico, non ho ascoltato tutta la strada, ma almeno aggiusta dove ci sono i fossi. Là fa un po' di bitumo, cata, di cose, invece non si alzata la nuda, non ha raccontato un pezzo, e l'altro pezzo l'ha tutto quanto, l'hanno lasciato, tutto l'altro facciato. Come li fa lasciare il pezzo del buco e aggiustare tutto l'altro pezzo che c'era, invece non ne aggiustano, ma là sotto infatti le zappoli alla ricocco, poi se vanno qui nel comune, ohia, se vengono lavorando ti mette mano in testa, per carità, nei minuti e alla giubilità, sì, poi faccio mai che le bascendanti a tutte e due. Certo, c'erano a Baidene, ma con l'altro si sta ponendo un bettume, a Baidene andando. Tu sei confermato, ha detto, e beh, il fosso così lo lasciamo. Poi non ci abbiamo, e poi c'è il giacchetto che l'abbiamo allenato a un motocarro. Ha detto, almeno state visiti che vi si sta allungando il naso. Certo, beh, allora già ho detto, dentro a rubare. Ti ha fatto un incantro, pensavo che ti ha detto, mi sono fuggiti. Ma se non mi sento, dovremmo parlare al corso per il cioccolato, chi era una strada, o casia, un ciotolato entrano al bar, e uno che ha autorizzato gli altri, siamo scesi apposta a fare quel lavoro, per carità. Vado a ponere in giornale, a FD, ma pento, e se lo mandare il giornale, se lo mando. E vedi cosa li posso fare, chi? Ma vedi, non può entrare in più, adesso ci ho pagato per entrare dentro al bar. Io non dico, stai lavoro, appunto, se andate di caffè a fare quello che devi fare. Se fai il lavaggio, stai nella sala, non ti vado in basta. Hai capito, boh, è un casotto. E la chiedo, ci ho controllato, non penso. Se non controllato, faccio il lavoro che vuoi fare. Ma sono attenti però a me. Ma se basta un coso, una figura per un giornale, vedi che ieri poi sabbi fuori a dare il giornale, come ci si comportano, e vedi cosa succede. E io basta una macchina, ma io mezzo, basta, via. Mi sa che stamattina torna al corso, torna al corso, una bacia di corso, e c'è una divisa come ce l'abbiamo noi, poi magari pensano che siamo noi dentro il bar, capito? Perché la gente non lo sa. Sì, guarda, a me molte volte mi danno fastidio quando stanno facendo i zappoli, mi rabbaido e mi fermo. E sta baita ne ti dicono cosa ti dicono. Cioè, la gente che mi ha detto la salita, che ha fatto posso stare, ha detto, sono finito di lavorare, mi faccio la fotografia e vedete cosa mi ci affura. Dice, tanto non lo può fare lì, no, tu posso qua e vedi cosa dici. Io non ricordo che abitavo di fronte a casa del mamma, la sera contraria, il suo muletto, è morto. Mi ricordo sempre una cosa, io, quando stavo facendo i lucoli al cimitero, mi ha fatto buttare non so quanti lucoli all'impresa, tutta a terra, lui era, se non era quello, butto a terra, e ha speso, e all'infanzia ha speso io, Beh, adesso non esiste più l'essere contrario, capito? Da quando siamo morti che siamo, non ne posso più l'assistente contrario, ma vivo però, almeno uno o due vivoni, anche non ne vuole pagare, ecco cos'era, comunque non mi può pagare, anche se no avevi visto quanta gente travagliava, per non pagare nessun sacco. E il lavoro l'ha fatto bene, anche una cazzata, non si fa niente, io con una delle tutti a spesa, a una pena di riposte. In certe vie non puoi passare, ci sono tutti, passa la banana e dai la toppa non la foto, passa la certa e idee, ci sono certe vie, mi sono, devi camminare piano piano, c'è questa scivolata, lì non ci vuole essere, dai, hai terminato il lavoro, prendi e colpi e subito pure. Invece no, sono mesi, forse anche, forse un anno. Cioè di fronte all'agraria, dove c'è quel palazzo, lì abbiamo asfaltato, due di prima abbiamo asfaltato, hanno fatto l'attrice, hanno fatto, per ciambare un dubbio, hanno rubato il ciambare la prima di fare il suo travaglio. Cacca, non vedi niente, cioè è arrabbiata in chivi, che si è rubarazzo. Certo, non so cosa di contrario va via. Sì, perché quando fanno il lavoro non chiedono la mappa, che non fanno il lavoro sulla strada, io non sono un giovane, però non fanno il lavoro sulla strada e via, che chiedono come la mappa, che tubi passano qua sotto, passa Banova, passa Lene, passa Sierte, tutto mi chiede, quindi sta attento quando stai scavando, sta attento con che tubi ci vuole, pure i tubi li rompi, ogni tanto scacciano il tubo, perché non è colpa di quello che è il coso, però se tu chiedi la mappa, quello sta attento a tagliare a scavare, capito? Ciao soci, noi avevamo per asfaltato dopo due giorni di lavoro in tagliato, a che magari doveva passare il tubo. Sì, e così facendo il lavoro senza baldare nulla. Vabbè, signor Marie, io devo pigliare i bacini e te saluto, a risentirci alle prossime, domani non lo so perché sono al compleanno dei miei nipoti, quindi non ci sono neanche, domenica non lo so, e ci risentiamo. Ciao, ciao signora. Anche io sono grato di essere qui, però certo non è soltanto, anche per me è cura di te. Ciao, ciao. Ci risentiamo, ciao.